Benvenuti, benvenuti e bentornati a questa nuova puntata del Focolare Elettrico, il nostro podcast su videogiochi e game design. Questo è l'episodio 16, se non sbaglio. Sì, corretto. Sono Marco. Io speravo si fosse dimenticato stavolta, non Jacopo. Mi hai fatto notare la volta scorsa, adesso non lo scordo più. Porca troia. E benvenuti in questa puntata che si chiama The End. Ed è proprio di questo che vogliamo parlare oggi, ovvero la fine, non del nostro podcast, si spera, speriamo di continuare ancora per un po', almeno finché ne avremo entrambi voglia, giusto? Ma, come visto che siamo partiti con questa metafora del videogioco, non so se metafora è la parola giusta, però diciamo questa rappresentazione del videogioco, dal premere start all'arrivare appunto alla fine della storia. E oggi vogliamo parlare dei finali dei videogiochi, quelli che hanno sconvolto l'industria, quelli che sono memorabili, ma per i motivi sbagliati. E niente, condividere con voi un'altra volta ancora le nostre opinioni. Quindi sbagliate. Sbagliate, ovviamente. Molto, molto, come si dice... Ah sì, voglio fare questo messaggio perché sono passati 16 episodi e siamo un po' alla fine del discorso, appunto, come diciamo, dell'ordine un po' delle varie caratteristiche di un gioco. Volevo ribadire che nessuno di noi sa di cosa stiamo parlando, cioè non sappiamo di cosa stiamo parlando. Sono opinioni di persone appassionate più che esperte. Non è vero che non sappiamo. Noi sappiamo di quello di cui stiamo parlando, non è detto che le nostre conoscenze siano giuste, però questo è un altro discorso. Ah, esatto, bravo, esatto. Magari siamo stati imbarati, però male, capito? No, vabbè, era per dire... nella prossima puntata, soprattutto, parleremo di cose un po' più interne, anche quelle non da esperti, ma così. Vabbè, non facciamo spoiler per il futuro. Esatto, non facciamo spoiler per quella puntata. Stavo pensando però anche oggi, già che siamo in argomento, che forse ci avviciniamo ad aver compiuto quasi un anno di podcast. Oddio, no, ci manca ancora. Oh. Ci manca ancora, sono io che ricordo male. Cioè, non dico il numero di puntate, però il numero di puntate ce ne mancano, perché non siamo stati così bravi nella programmazione. Credo a gennaio, credo fra un po', ancora. Ah, ok, come non detto. Come non vola il tempo quando dici come non vola. Vabbè, dicevamo. Quindi cominciamo con il nostro tipico format, no? Se così si può definire, giusto? Sì, più o meno. Cose che per riorganizzare le idee abbiamo questa scaletta di cose da dire. Esatto. E quindi, Jacopo, che cos'è un finale? Ah, lo chiedi a me? Volevo chiederlo a te. Perché fregato. In realtà non abbiamo ben capito, abbiamo scritto un po' di cose, però non esatto. È chiaro. Cioè, allora... questa, a differenza di quello che possono essere un film o un libro o qualsiasi altra forma di intrattenimento, in che se il film ti dicono dura 102 minuti, sai che finito lì. Oddio, puoi riguardare 5 volte John Wick 2, però... E dovresti farlo, solo. Questo che stai dicendo. Con una mano nei pantaloni, piano, oh, che okay. Però sì, per un videogioco è più complesso definire il finale, perché ci sono... Aspetta, hai avuto un attimo un treno, qualcosa ti ha fatto la voce robot? Mi ero scordato che sono a casa, adesso c'ho la ferrovia dietro. Ah, ok. Sì, dicevo, per un videogioco è più difficile definire un vero e proprio finale, perché i giochi... Può finire la storia di un gioco, possono finire i livelli, ma il vero finale si può dire quando il giocatore decide di smettere effettivamente di giocarci, no? Esatto, perché non è che il film lo accendi, lo fai partire e poi te ne vai e quello finisce. Il gioco di solito ha bisogno di te, a meno che non è, non so, Heavy Rain, qualcosa di sperimentale. Boh, in teoria il giocatore è una parte essenziale, quindi sei tu che spesso decidi appunto quando... La storia è finita, quando il gioco è finito, eccetera. Esatto, anche perché è un po' complicato. Questo spiega anche perché alcuni giochi per alcune persone durano un solo livello, perché poi si rompono le palle e decidono di smettere, di non continuare a giocare, semplicemente. Cosa no, vabbè, anche a livello più di design, cioè Adesso comunque ci arriveremo, però allora un attimo proviamo a dare la risposta che ci siamo dati. Quindi un gioco può, questo sto leggendo, un gioco può tecnicamente finire quando appare la scritta game over. Quindi esistono alcuni giochi dove per indicare la fine della partita appare scritto game over, cioè anche se non hai perso, se non sei morto, dico, non stiamo parlando di game death loop come abbiamo fatto l'episodio quello sulla morte, però esistono anche giochi dove semplicemente è come un film, un libro, così la storia del gioco raggiunge una conclusione, quindi cioè, la storia termina. Questi due sono un po' più, come dire, chiari, nel senso il designer, la persona che ha scritto la storia o il director del gioco ha deciso che il gioco come pacchetto completo doveva finire più o meno lì, quindi se tu finisci lì, ok, è finito, puoi dire che hai finito il gioco. Però poi c'è un altro problema, nel senso, in un gioco dove non c'è questo finale ben definito, è più complicato. Quindi abbiamo scritto, magari la progressione termina, non hai più livelli da sbloccare, abilità da sbloccare, contenuti da raggiungere, posti da scoprire, quindi semplicemente il gioco termina un po' i suoi contenuti, magari poi può continuare, sì, però non ci sarà mai nulla di nuovo. Meno che non sei un pazzo che fa cose strane su Breath of the Wild, tipo tirare un pollo a un boss e ammazzare il boss con un pollo. Se però il gioco è moddabile, alla fine poi ci si ritrova con cose come Skyrim, in cui 9 anni dopo la gente ci sta ancora giocando e la Bethesda lo sa. Esatto, lo sa bene, perché fa i giochi rotti apposta così la gente li monta, no, e va la Bethesda, quella che ci ha portato Skyrim. Ah, è uscito quel gioco famoso per i frigoriferi Samsung, Skyrim, no? Mi sembra. Comunque sì, alla fine abbiamo deciso, Marco ha deciso, come diceva prima, il gioco termina quando termina. La tautologia, quando decidi di smettere di giocarci. Quando sono il capo di questo podcast, inchinatevi a me. Esatto. E quindi un finale l'abbiamo deciso così, almeno nel reparto dei giochi. Questo poi, come dire, apre discussioni interessanti su queste cose, perché a seconda del giocatore un gioco può avere un finale diverso e non solo un'interpretazione diversa come magari quella può essere quella di un film o di un libro, ma proprio un giocatore decide che di spenderci giusto il minimo di ore necessarie per concludere la storia di un gioco, e un altro decide magari di voler sbloccare tutti gli achievement, superare tutte le sfide, della differenza di quelli che, come dire, dei veri completisti dei giochi in questo caso. Sì, magari c'è quello che si accontenta di fare un certo rank, tipo silver, tipo argento, no? In League of Legends. Poi ne parleremo in un episodio a parte. Invece magari quello che non si accontenta arriva fino al diamond, Luca. E mi piace buttare i nomi così se qualcuno ci sta ascoltando si spaventa. Poi a livello più narrativo magari, come dici tu, c'è quello che si accontenta di dire ok, c'è un finale definito, mi accontento di raggiungere quello, oppure si ferma prima, fa il completista, eccetera. Quindi cioè, noi ci concentreremo principalmente su giochi che hanno finali definiti da un designer, nel senso che o sono narrativi, quindi hanno un finale narrativo, oppure hanno un momento finale abbastanza comprensibile, cioè abbastanza... Perché va anche detto che, e questo forse lo approfondiremo un attimo più avanti, secondo la scaletta, ci sono giochi che il finale non ce l'hanno, ma di design proprio, non prevedono, esatto, non prevedono un momento in cui dire al giocatore ok, hai finito, hai fatto tutto. Ma come dicevo, questo ne parliamo più avanti. Quindi, abbiamo anche parlato di quali tipi di finali potessero esistere nei giochi, giusto? Sì. Avevamo detto, quindi, per i giochi appunto che hanno dei finali, spesso il momento finale è chiaramente appunto riconoscibile, perché c'è un super mega boss della vita, abbiamo parlato già in un'altra puntata, spesso sono quei boss che se sono fatti bene ti sfidano su più livelli, cioè ti cercano un po' di stimolare, di far ricordare tutte le tecniche, tutte quante le meccaniche che hai imparato, o magari se è un gioco non particolarmente tosto o con una storia particolare c'è solamente una cutscene, cioè un filmato che ti finisce un po' la storia, ti conclude un po' la storia, te la chiude. O magari se non ha il concetto di boss, se non ha il concetto di storia, c'è una gara un po' più difficile, c'è una sfida più alta di quella che era, diciamo, la meccanica principale del gioco. Quindi non è proprio una vera entità boss, ma un livello boss, o una, come posso dire, una sezione del gioco più difficile, più, diciamo, completa. E quindi, diciamo, di solito sono queste un po' gli apici, no? Perché c'è questo picco di difficoltà, quest'ultimo grande ostacolo da superare, e poi dopo c'è il relax, cioè tipo finale con the end e così. A volte, per alcuni giochi, ma più raramente, semplicemente non c'è più nulla da fare, questi vabbè sono finali un po' brutti, però oppure, questo è un po' meglio, hai una specie di, come l'ho chiamato io, finale degli anime. Se avete mai visto la puntata di un anime, è facile che vi siete resi conto che la sigla è una roba tipo metal, e invece la coda della puntata è tipo una canzone zen, tranquilla, molto, non so, rilassante, con un po' di pioggia, un po' di, non so, tipo lo-fi, hip-hop, beats, tu stai, insomma, cioè molto rilassante, capito? Quindi ci stanno giochi che hanno questo finale che è più una passeggiata nel bosco, diciamo, per un po' distenderti così, o per avere questo, come posso dire, questo crescendo emotivo, invece che avere una cutscene o un boss, hanno semplicemente questa camminata tranquilla per chiudere. Diciamo che di tecniche di finale ce ne sono state... Ah sì, sì. Queste sono solo alcune che ci siamo ricordati, poi ne parleremo dopo, insomma. Una cosa che mi è venuto da notare mentre facevamo questa distinzione proprio adesso era come forse si possa poter definire anche qualcosa tipo il finale in molti giochi, un finale per la storia e un finale per il gameplay. Ovvero... a un certo punto, se sono giochi con una parte narrativa, la storia deve finire, se sì, è stata fatta bene. Una buona storia ha un buon finale. Ne parleremo dopo. È stata una buona storia ha un buon finale, e quando questo avviene, il gioco si... appunto la storia finisce, tutte le linee narrative vengono chiuse, e il giocatore ha un, come dire, ha una catarsi di tutta certo, le vicende dei personaggi. Ma la fine di una storia non vuol dire appunto la fine del gameplay. No? Quindi infatti lì ci stavo pensando, si potrebbe fare questa distinzione appunto tra vedere come, dove gli sviluppatori decidono di concludere la storia e dove gli sviluppatori decidono di concludere il gioco. Che play, certo. Esatto, perché qua ci vengono in mente tutti quei giochi appunto con magari la possibilità di avere il multiplayer dopo la campagna principale, vedi tutti i COD con la loro campagna single player, e poi avere anche la funzione multiplayer che arricchisce molto, espande il gioco, appunto lo rende molto rigiocabile. No, niente, ma questo... anche in single player magari hai, che ne so, scusami, hai all'oriccio Gears che ha la campagna, poi ha la modalità orda o sparatoria dove hai delle ondate, capito, di nemici. O semplicemente magari finire la storia ti permette di esplorare il mondo di gioco in maniera completamente libera, come mi sembra facciano anche cose come appunto Skyrim e cose del genere. Beh, GTA, finire, sì, sì, a volte, certo. Finire la storia non vuol dire la fine del gameplay, perché magari nel gioco hai ancora, come dire, possibilità di sfogarti, di provare nuove tecniche, nuove abilità, sì. Alcuni giochi hanno tre finali, hanno il finale della storia, poi il finale di gameplay e poi il finale del gameplay, che è un'altra storia. Quindi sì, insomma, dipende un po'. Questo devi fare un esempio dopo. Dopo faccio un esempio. Faccio un esempio anche molto recente. Ma Marco, quindi abbiamo detto ok, finale, vabbè, ci può essere di che tipo, ok, però Facciamo un po' i due gli avvocati, cioè sia del perché mettere un finale, quindi quando è importante averlo, e perché non metterlo, quindi quando magari è meglio non mettere un finale. Certamente. Allora, come dicevo prima, innanzitutto, beh, se si parla di finali narrativi, quello è una regola della storia, no? Una qualsiasi, una buona storia, a mio parere, deve avere un buon finale. E quindi quello... Però, come dicevamo, quello è quasi a parte, no? Per quanto riguarda il gameplay, un finale può essere necessario appunto per dare, come dire, un po' di pace al giocatore, per dirgli: hai visto tutto quello che c'era da fare, hai fatto tutto quello che potevi fare, non ci sono più achievement da sbloccare, hai finito, vai avanti con la tua vita a questo punto. E qui ho scritto: sei un malato di merda, nel senso, perché ci sono persone come noi che purtroppo sono un po' malate per alcune cose. Però vabbè. Per me, cioè, diciamo, non è solamente a livello di pace mentale, se sei un completionista, come si dice? Un completista, forse. Ma anche semplicemente, dicevo, hai finito la storia, hai visto più o meno tutto la parte principale che dovevi vedere, o almeno voglio farti credere che hai visto tutto, magari è una, come si dice, una cosa, poi ne parleremo, una cosa finta. Però sì, cioè, sia che tu sia un matto di merda come noi, sia che tu sia una persona normale, ti dice: oh, a posto, hai finito, sei a posto. Esatto. E quindi appunto il finale serve a dare una struttura più definita. Infatti c'è anche il caso in cui i giocatori hanno addirittura chiesto per un finale, come avevamo segnato qua, nel caso di Minecraft, in cui all'inizio lo sviluppatore, Notch, che... Figlio di puttana, scusa, è naturale, viene fuori... Che a Jacopo fa sempre piacere sentirmi insultarlo. All'inizio Notch, o comunque gli sviluppatori delle prime versioni di Minecraft, non avevano previsto un vero e proprio finale per il gioco. E quando i giocatori effettivamente gli hanno chiesto di aggiungere un finale per la modalità survival, lui si è inventato appunto la dimensione dell'End con l'Ender Dragon, appunto per questo che si chiama appunto Ender Dragon, con i titoli di coda che poi scorrono sullo schermo una volta ucciso. Quindi a volte è una cosa che può essere anche utile ai giocatori, per, come dire, in questo caso potrebbe darsi che a me non è capitato di giocare alle primissime versioni di Minecraft, però magari quelli più assatanati, più affiatati, no? Assatanati penso sia il termine un po' politically incorrect. Un po' eccessivo, ma quelli più affiatati magari volevano una struttura più definita del gioco, volevano sapere quando... quali erano gli obiettivi da sbloccare e poi... E quando il gioco appunto finiva. Infatti, se non sbaglio, poi da quel momento lì credo siano partite anche le speedrun, no? Di Minecraft con certo. L'Ender Dragon, o comunque, beh, poi si è evoluta anche la cosa, ma comunque battere l'Ender Dragon penso sia stato appunto la nascita anche delle speedrun di Minecraft. A me la voglio dire due cose. Una è che parleremo di Notch del perché è uno stronzo in una puntata a parte. Due, le persone comunque gli piace proprio essere buttati di sotto dal drago. Tre, il fatto degli speedrun è un discorso, secondo me, che pure dovremmo affrontare in una puntata futura, perché no, forse ne abbiamo già parlato in realtà. Una speedrun è praticamente completare un gioco nel minor tempo possibile secondo alcune regole. Quindi ci sono delle community che tipo dicono: questo autoimposta dei giocatori verso se stessi di concludere appunto un gioco, come diceva Jacopo, nel minor tempo possibile. Esatto. Giusto in evidenza il fatto che era autoimposta. Se qualcuno conosce Minecraft o ha ascoltato un episodio prima, sa che Minecraft genera i mondi in maniera casuale. In realtà, se hai lo stesso seed, cioè lo stesso seme, che è un codice tipo di qualche lettera, puoi generare sempre lo stesso mondo. Quindi che succede? Che degli speedrunner appunto si sono condivisi questo sito e hanno detto: devi finire questo, cioè devi arrivare all'Ender Dragon e ammazzarlo con questo seed, e con queste altre regole, a posto, cioè, andiamo. Quindi così sono nate le speedrun per Minecraft, perché magari, cioè, tu dici, ok, un gioco normale è quello e basta, invece Minecraft, cioè, è tutto casuale, quindi come cavolo, cioè, come funziona? Volevo un attimo chiarire questa cosa, scusa. Assolutamente. Poi dicevamo, appunto, perché mettere un finale in un videogioco? Ok, sì, scusa, era quello il discorso. Ti ho dato la digressione. Ma sì, no, perché mettere un finale in un gioco? Perché dicevamo, appunto, per questi motivi, bene, appunto, quello che dicevo prima, per dare un senso alla storia, perché avevamo citato anche quello, e questo l'avevo messo, forse è stato io a proporlo questo, perché, non so, sono quello un po' più cinico della coppia, probabilmente. Effettivamente per vendere il gioco successivo, d'altronde, se un mamma giocatore... mia, come sei venale, oh! Non so, ma mamma se mia. Un giocatore continua a giocare sempre allo stesso gioco e a non smetterlo mai, di sicuro non andrà a comprare è meno probabile che vada a comprare il gioco successivo. Guarda, quindi... ti considererei un cinico se non fosse che mi è successo talmente tante volte che ormai cioè, è quasi ordine del giorno, cioè assurdo. Poi sì, a volte il finale si può, come dire, sempre utilizzare come mezzo pratico per il nostro amatissimo capitalismo. Il fatto del senso di una storia, capitalismo a parte, a volte avere un finale ti permette di dare un senso, perché la storia, alla fine, quando finisci di raccontarla, hai praticamente scelto il senso della storia spesso. Quindi, beh, adesso faccio un esempio, magari ne parleremo dopo. No, beh, era giusto, non so se richiamarlo di nuovo, perché l'avevo inteso molto come anche quello che ho detto prima: una buona storia ha un buon finale. Sì, è vero, però a volte una buona storia può avere il problema che doveva fermarsi prima, nel senso che è il momento del finale anche, non è solamente che cosa è il finale. A volte finisce troppo presto, vabbè, quello è un altro tipo di problema, però nel caso tipo di Red Dead Redemption 2, per me il gioco è andato avanti troppo, cioè proprio un discorso anche di ritmo. Tu avevi una storia, avevi un arco narrativo, un arco di un personaggio, e scegli di andare avanti, secondo me, troppo. Per me, cioè, non lo so, vabbè, questo poi va molto a... Dice, succede un po' come nelle serie di TV, no? Le prime stagioni sono fantastiche, poi dopo più vai avanti, più sì, gli scrittori devono inventarsi... O magari succede come Agents of S.H.I.E.L.D., che hanno avuto 4 finali, e quindi dopo un po'... tecnicamente... Scusami, no, finisci pure. No, vabbè, io perché parlo sempre di Agents of S.H.I.E.L.D. anche nell'altro podcast, quindi posso anche, cioè, smettere qui, era perché nell'ultima stagione... Esatto, nell'ultima stagione hanno proprio fatto delle battute sul fatto che la serie TV è finita tipo 3 volte, quindi vabbè, proprio auto-insultati. Scusa, dicevi? No, dicevo che questa... è fatto un commento particolare, perché per alcuni giochi... è vero, ma non solo a cui sappiamo entrambi ci stiamo riferendo, ma sì, nel caso dei videogiochi è anche non solo possibile, ma molto spesso normale, ormai quasi uno standard, avere più finali diversi. Quindi, vero, diciamo, sì. Se il finale della storia è uno solo, cioè il finale della storia è uno solo, ma si può scegliere questo finale tra più finali diversi, e questo è un altro, come dire, un'altra meccanica, sempre per far immedesimare di più il giocatore, un altro metodo per far diventare la storia più personale per chi gioca al videogioco. Quindi anche questa cosa dei finali multipli è una cosa che, come dire, forse questo non l'avevamo detto, ma effettivamente un finale, nel caso dei finali multipli, di come il giocatore può andare a influenzare la storia sotto certi punti di vista, può essere anche considerato una cosa di meccanica, no? Proprio un elemento di design. Per è una parte della scelta, certo. Scelta interessante, quindi, no? Quindi un altro motivo per mettere un finale, appunto, è far scegliere un finale, in questo caso è una cosa di meccaniche, di design, per far immedesimare ancora di più il giocatore. Ok, e invece, vabbè, adesso facciamo la parte un po' negativa, perché... No, negativa, okay, la controparte. Chiedo io a te, perché non mettere un finale? Perché ma no, vabbè. Facciamo entrare. Allora, perché abbiamo, diciamo, fatto una distinzione. Ci sono alcuni giochi dove il finale magari poteva esserci, ma era un discorso di limitazione tecnica. Quindi parliamo di giochi molto vecchi dove non esisteva il concetto di memoria, di partita, di storia. Magari era semplicemente tu andavi avanti all'infinito, facevi un punteggio alto, poi a posto. Cioè, esatto. Non c'era un finale vero e proprio, a meno che non c'era un bug, poi ne parliamo dopo. Recentemente questo... Citiamo adesso, non so. Vuoi citarlo adesso? No, non so, perché mi piaceva fare solo giusto appunto... Solo la citazione volevi fare? Oh, sì, perché per fare un esempio pratico, per far capire che cosa si intende quando... Vai, vai. L'esempio più classico di questa cosa è appunto la prima versione di Pac-Man, quella uscita nelle sale giochi nel... non mi ricordo... 80 qualcosa? Probabile, sì, anni 80. Ora, in un mondo così nuovo, anche un gioco come Pac-Man non aveva previsto, come dire, un finale, anche perché nell'ambito in cui era stato creato, quella della sala giochi non sembrava, come dire, necessario. Il gioco prevedeva solo una quantità elevatissima di livelli che poi aumentavano sempre di difficoltà andando avanti, quindi si immaginava che il finale fosse la sconfitta del giocatore, no? Quando il giocatore appunto finiva la partita perché veniva divorato da uno dei fantasmi e doveva inserire un nuovo monetino per continuare a giocare da capo, per ricominciare a giocare da capo. Sì. E in questo caso è stato scoperto dai veri appassionati, dei giocatori che sono riusciti a battere tutti i livelli disponibili, che a un certo punto la memoria disponibile non bastava più, e arrivati a un certo al 256esimo, ricordo male. Sì, livello 256. A livello 256, che non stiamo a spiegare, c'entrano bit e cose informatiche. Vabbè, sì, cose tecniche, però vabbè, non importa. E praticamente mandava in palla il gioco, lo schermo si sminchiava del tutto, i livelli... ricominciavano praticamente, erano sempre ripetuti i livelli precedenti, però c'erano errori sullo schermo, i labirinti non funzionavano, cose del genere. Quindi il vero finale di Pac-Man è quando appunto il giocatore riesce ad arrivare a un livello talmente alto che la macchina impazzisce. Si rompe, esatto. Quindi ha rotto il gioco, letteralmente. E, vabbè, poi questa cosa in realtà si è scoperta che era relativamente semplice da sistemare, vabbè, poi non si occupa del dopo. Però parliamo della primissima, della vera prima versione di Pac-Man. Sì, sì, sì. Comunque... a parte questo, poi comunque sono rimasti giochi che non hanno un vero finale, tipo appunto dicevamo Minecraft pre Ender Dragon, ma anche post in realtà, Satisfactory, Factorio, qui è scritto anche Autonauts, sì, che è un altro gioco della cosa di sempre automazione del tipo Factorio e cose del sì, genere. Sì, sì, quindi sono dei puzzle game o degli, comunque dei, non so come chiamarli, tipo di costruttori, cioè cose che costruisci. Builder game. Builder games. Giocattoli, come piace a te chiamarli questi. E che li hanno sempre, anche lì, li hanno sempre definiti survival game, partendo da Minecraft con la modalità survival, però, come dicevo io con la nomenclatura dei giochi, che non, a certi punti non mi piace, ecco, qua secondo me dovrebbero definire appunto una categoria forse nuova. Non lo so, però sono questi qui, non riusciamo adesso a definirli, però vabbè, chiamiamoli builder games. Poi sono anche i giochi PvP, quindi abbiamo detto League of Legends, eccetera, eccetera, cioè, dove c'è magari una progressione, però cioè, limitata alla tua voglia, insomma, di giocare, alla fine potessi andare avanti all'infinito, quindi ok. Poi invece, più a livello di... come posso dire, di effettivamente meccaniche, c'è questa idea del, appunto, più in generale, senza parlare dei generi specifici, che ci siano giochi che non sono cose da completare, cioè non sono delle opere limitate, sono una sfida agonistica, sono una crescita infinita di difficoltà, quasi come uno sport. e si riferiscono, secondo me, questo faccio un po' una cosa filosofica, si riferiscono un po' di più a quello che era il gioco prima, quando eravamo nelle caverne, cioè più il gioco inteso come giocano i gatti, come giocano le tigri, cioè gli animali alla fine giocano sempre, vabbè, sì, perché vabbè, ok, è un modo per legarsi emotivamente, per insomma stare insieme e così passare il tempo, però anche specialmente per allenamento, no? Cioè non è solo svago, è proprio allenamento alla caccia, allenamento alla fuga, a riconoscere i pericoli, a divincolarsi, a, cioè non è, sì, non è solo qua, forse in questo caso il gioco assomigliano quasi di più, e qua sto per sparare la grossa, a discipline olimpiche, inteso appunto una sfida contro se stessi, magari per migliorare le proprie abilità. Però, per esempio, quando è che si finirà con che finirà il gioco del salto in alto o il salto con l'asta, inteso? Ma anche sarà... scacchi, per fare una cosa più semplice, più simile. Sì, sì, no, esatto, questo volevo dire, poi vabbè, il resto è... Sì, sì, no, sì, so. Alla fine sono più da intendere come più una disciplina, quasi, come un vero gioco, inteso appunto come un modo sempre per cercare di battere nuovi record, per cercare di essere... di tenere nuovi punteggi, che prima non erano... Sì, possibili. Sì, sì. O competere, sì, sì, come nei PvP. Quindi, vabbè, lasceremo poi anche l'idea dell'endgame, quindi di cosa c'è dopo un finale, di cosa succede dopo un finale, per un'altra puntata, perché è un discorso complicato e abbastanza grosso da fare. Quindi ci sono giochi per spiegare, no, l'endgame non è Avengers. magari alcuni giochi tipo The Division 2 sono giochi che sono molto... come posso dire, aumentare il personaggio, trovare equipaggiamento figo, cose così, non hanno un finale definitivo, ma appunto tu finisci il gioco e poi puoi continuare, e spesso quello che succede dopo il finale è proprio un altro gioco, c'è un altro bilanciamento, ci sono nuovi nemici, nuove sfide, nuove cose, quindi diciamo dipende come lo guardi, magari puoi dire ok, allora quello non è un vero finale, perché se il gioco continua c'ha cose nuove. Però puoi anche vederlo come una specie di sezione a parte di gioco per, non so, appassionati, appunto perché ha più il gusto dell'agonismo o del grinding, non lo so, cioè, è proprio un'altra cosa. Beh, ne parleremo comunque in un'altra puntata. Invece Marco, non so se volevi parlarne adesso, perché poi ti triggero quando dico di Pokémon, no? Cioè, proprio... Sì, beh, effettivamente Pokémon... secondo me è uno degli esempi più lampanti di quella cosa che avevo accennato prima, ovvero la distinzione tra il finale narrativo e il finale del gameplay. I Pokémon non sono mai stati campioni di... non hanno mai avuto premi Pulitzer alla letteratura per come avevano scritto, o in questo caso erano i BAFTA, mi sembra, per la storia del loro gioco, no? Perché le storie dei Pokémon, non prendiamoci in giro, fanno sempre abbastanza... Che gare. Ma i Pokémon sono la rappresentazione perfetta di come, dopo il finale narrativo del gioco, che tipicamente sei tu, protagonista che batte la Lega, spero che gli ascoltatori sappiano di quello che sto parlando. Perché... Ma io non lo spiegherei, guarda, lasciamolo così, poi tanto faremo una parola di due ore. Praticamente diventare il campione della zona in una certa disciplina, mettiamola così. Dopo si apre effettivamente quello che è il, tra virgolette, vero gioco dei Pokémon, ovvero la possibilità di completare il Pokédex con esemplari che prima non erano disponibili, la possibilità di effettivamente sbloccare tutta la parte di allevamento del Pokémon, quello per preparare i Pokémon alle sfide competitive, proprio quelle veramente competitive, cioè PvP anche dei Pokémon, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, il finale narrativo qua è una parte del gioco che una volta fatta poi ti sblocca il gioco vero. E per cui, a meno che tu non abbia proprio solo... Ci sei ancora, ecco? Sì, sì, sì. Ah, ok. Per un attimo ho temuto fosse crollato. Perché non ti stavo interrompendo, perché... ho fatto troppo tempo. È vero, è vero. No, niente, tutto qui era giusto per dire che finito il finale narrativo, poi si sblocca tutto il resto del gioco. Ok, quindi vabbè, ne parleremo, ripeto, ne parleremo di Pokémon in una puntata a parte, perché Marco ha molto da dire, parleremo di Endgame in un'altra puntata ancora. Per farmi un contentino, perché... per farti devo sfogarmi con qualcuno nel primo. Esatto, per triggerarti. Però, quindi arriviamo adesso a definire un po' di più, quindi abbiamo più o meno capito cosa è un finale, magari no, perché è difficile, però ok. Quando è che un finale è fatto bene? E qui è molto, cioè, è ancora più soggettivo. Deve essere un finale, prima di tutto, quindi è facilmente comprensibile il fatto che sia un finale, questo già è opinabile, perché magari, io non avevo capito che quello significava il gioco è finito, ma succede, succede abbastanza spesso, non è scontato. Quindi per essere un finale deve chiudere qualcosa, quindi ci sono delle domande di trama o delle domande addirittura di gameplay, quindi meccaniche introdotte prima che non sono mai state usate, così c'è qualche questione introdotta, qualche domanda, qualche arco narrativo deve essere concluso. Quindi, che ne so, cosa Iota, mi viene in mente un esempio generico, se io sono Tizio Caio nel villaggio che gli hanno ucciso la famiglia, trovo il cattivo che mi ha ucciso la famiglia e mi vendico. Finale 1. Se, che ne so, a un certo punto mi hanno dato questa spada a forma di chiave... No, aspetta, questo è un esempio troppo specifico. Io non saprei come finisce poi. Se mi ha dato una chiave normale, quindi non una spada a forma di chiave, magari nel finale ci apre una porta, per esempio. O se mi hanno dato una spada specifica che serve ad ammazzare una persona specifica, che non so chi è, magari alla fine ho questo combattimento dove finalmente posso usarla. Non so, questo ho fatto una cosa che non esiste. Però a volte è importante definire, cioè, ok, esistono appunto domande di trama, domande e questioni aperte da trama che vanno chiuse, ma a volte esistono anche meccaniche che vanno un po' appunto sfruttate, cioè va un po' chiuso appunto lo sfruttamento della meccanica, va un po' esplorato fino all'ultimo. Qui, vabbè, per rimanere sempre sul generico, dovrebbe essere memorabile, dovrebbe essere un po' coerente a livello di meccaniche, ma anche no. qui poi vabbè dipende un po' dal gusto, può anche in realtà lasciare nuove domande, creare nuove domande se quindi è un po' un casino, cioè definire un buon finale dipende molto dal gioco che c'è prima, come dicevi prima tu, no? Cioè, penso che sia l'eterno dilemma, no? Come si fa, esatto, a definire un buon film, come si fa a definire un buon libro? Alla fine forse è quello il punto, nel senso, uno non può spiegare per filo e per segno perché un finale è buono, perché è un libro, è stato giusto, però, come dire, se funziona bene lo si sente, lo si percepisce, è memorabile, in generale secondo me deve essere memorabile, come dire, e ti soddisfa, no? È quel momento in cui tu dici però è una buono, è quello che ti fa dire no? piano che qua i soundbite poi si sprecano dopo però sì, come dire, è quando tutto torna, è quando ogni tessera del puzzle cade al proprio posto, è quando senti che non ci deve essere altro detto dopo, no? Non so come altro, esatto. Quanto ancora posso essere poetico con questa no, guarda, tranquillo, che tanto ho già rovinato tutto. Salla, questo è per te. E quindi, vabbè, abbiamo detto quando un finale è fatto bene. Quando è che è fatto male? Io direi, quello che abbiamo detto adesso, aggiungiamo il nonno davanti. Quindi quando non capisci che è un finale, non chiude niente, non ti crea nessun nuovo dubbio, non è memorabile, non è coerente, non c'è un culmine di sfida nelle meccaniche, non c'è, capito, una chiusura di meccanica, niente. E ho scritto qua, cioè, lo finisci 5 volte, il gioco, poi ne parleremo dopo, cioè, a 5 finali diversi, non ti lascia un minimo di soddisfazione proprio, cioè, non... anche a livello di meccanica, magari è troppo facile, passa troppo in fretta. O magari, oddio, oddio, ho letto una cosa, mi sono appena ricordato. Magari finisci il gioco e il finale è una pubblicità per un capitolo che devi scaricare e comprare, dove finisce il gioco davvero. Io non ho parole, ma è successo 2 volte quest'anno. Ok, dopo ne parliamo. Insomma. È facile fare finali brutti, perché... Ah, questo è un punto che non mi ero ricordato, volevo farlo adesso perché in Prego. realtà molte persone giocano a dei giochi tipo Assassin's Creed, cioè giochi abbastanza lunghi, e non li finiscono. Cioè in realtà è molto facile, cioè, la maggior parte delle persone che giocano a GTA, Assassin's Creed, Far Cry, non giocano per finirlo, cioè lo giocano così, girano così, e poi non lo finiscono mai perché non c'hanno tempo, perché Forse poi stai passano ad dicendo altro. che il loro finale arriva molto prima del nostro, giusto? Quello che... No, beh, Perdona. non dico che non finiscono tutto perfettamente come noi che siamo malati, però proprio non arrivano al finale della storia Assolutamente. Sono designato. anch'io colpevole di aver fatto questa cosa Ma più di sì, una ma tutti volta. lo fanno, però dico, è molto comune come cosa. Io, una cosa tipo 2/3 delle persone non finiscono tipo Assassin's Creed, forse anche di più. E È interessante per chi sta quindi... intendendo un po' andare a vedere tipo su Steam gli achievement globali, vedere che tipo i primi, quelli che si sbloccano all'inizio gioco, ce l'hanno tipo il... Anche lì interessante, 97. tipo di cose del genere, a volte anche intorno al 60, che tipo... Vabbè. Ma poi quelli che finiscono, quelli alla fine del gioco, quelli proprio per completare la storia, sono intorno tipo a volte al 10%, cioè una differenza abissale tra quello iniziale e quello finale. A volte perché magari nessuno l'inizia, cioè sono giochi che ti prendi con un bundle o in sconto e Sì, poi non no, inizi certamente. mai. Però Però era dico. curioso anche quello, soprattutto la differenza tra inizio e fine del gioco. Capito? Cioè, consideri un giocatore che ha giocato almeno 1 ora, 2 ore, quello è un giocatore che il gioco può considerarlo giocato, cioè ha avuto un'esperienza di gioco rappresentativa. Spero, spero, perché a volte non è neanche vero. Quindi, se lui poi non lo finisce e non lo vende, e non lo, cioè, quello è un gioco rimasto appeso. Certo. Comunque, vabbè, non so se avevi altri esempi di cosa non fare con un finale. Quando è che hai fatto male un finale? Boh. Anche lì, Difficile. allora, forse qua, quando si parla di finale dal punto di vista narrativo, abbiamo ormai secoli di letteratura, abbiamo decadi di film, e per quanto riguarda la narrazione. Per cui lì non ci, come dire, ci sono persone molto più esperte di noi per dare pareri riguardo a questo. Ci sono giochi con finali, con storie spettacolari che hanno un finale spettacolare e assolutamente merito. Per quanto riguarda il finale del gameplay, lì un po' più, come dire, da appassionati di videogiochi come siamo noi, anche lì, vedi, è una cosa brutta perché quando sei veramente appassionato a un gioco, il finale del gameplay quasi non vorresti che arrivasse mai. Però se deve arrivare, visto che deve arrivare a un certo punto, l'unico modo per, come dire, per farlo arrivare per bene, o hai dato veramente la possibilità di esplorare tutto quello che c'era di... Nel senso, non tutto quello che c'è di esplorabile, però come dire, di fare in modo che il giocatore abbia potuto essere soddisfatto dell'esperienza che ha avuto, intesa del gli hai dato la possibilità di provare tutto quello che voleva provare. Non saprei come altro metterlo in questo momento. Ovvero, gli hai dato questa opportunità di testare le meccaniche che voleva testare, provare a fare la build che voleva fare, magari anche provare a fare sfide che era naturale che gli venissero quasi che erano quasi naturali gli venissero in mente di fare. Altrimenti penso no, penso questo alla fine, cioè okay. Che il giocatore avrebbe potuto sfogarsi in tutti i modi possibili con il tuo gioco. E a quel punto si è pronto a mettere giù il controller e dire ok, apriamo, qual è il prossimo titolo della lista che devo Stavo per insultarti perché pensavo dicessi adesso posso uscire, fare avere una vita, invece no. Qual è il prossimo? Qual è il prossimo di Steam che ne ho ancora il 90% che non giocato. Perfetto, perfetto, bravo. Quindi direi a questo punto passiamo all'ultima parte normale del podcast. Però stavolta di solito facciamo esempi positivi e esempi negativi. Stavolta siccome è più complicato, è una cosa molto più soggettiva, abbiamo fatto il buono, il brutto e il cattivo, cioè anzi il buono, il ma e il cattivo. Quindi ci sono giochi che sono... Di Clint Eastwood questo. Come? Nuovo film di Clint Eastwood. Esatto. Esatto, c'è un personaggio che non gliene frega un cavolo durante il triello alla fine e sta lì e tipo si guarda il dopo, non capisce. Il vittore di Nachos. Oh. Il buono sono quindi finali che ci hanno colpito in positivo, il ma è finali che boh, ok, è finito. E poi invece cattivi sono proprio finali che hanno devastato, che hanno rovinato l'esperienza precedente o che sono proprio da punire, da frustrare, scusate. Frustranti. Quindi direi, vogliamo partire dai cattivi? O allora, visto che in generale come enciclopedia di titoli giocati, soprattutto per quanto riguarda quelli sotto il punto di vista narrativo, la tua è decisamente molto maggiore della mia, quindi io lascerei a te la parola per un po', se tu parti e io se trovo qualcosa poi mi prometto. Però poi si parla di finali, anche soprattutto di storie, cose del genere, qua sei tu l'esperto tra noi due, siamo sinceri, sono molto meno titoli a, come dire, alla cintura. Come si dice? No. Sotto la cintura? No, sotto la cintura è un'altra cosa. Allora, erano tacche alla cintura, se non sbaglio. Vabbè, comincia okay. Pure. Allora direi, per non rovinarci il fegato, partiamo da quelli cattivi. Poi, okay. Poi facciamo quelli ma e poi facciamo quelli buoni. Ok, andiamo, finiamo okay, con un quindi, climax. Esatto, piano, queste parole. Quindi abbiamo detto cattivi sono alcuni esempi di finali di storia, quindi secondo me cattivi, sono Arkham Asylum, cioè è un gioco dove c'è Batman che fa cose, risolve i problemi, così, finale. Ora, il problema sarà non spoilerare nulla. Io cercherò di non spoilerare, però anche un po' descrivere perché fa schifo. No, allora, se mi posso permettere, questo puntato si chiama The End, cioè mi pare ovvio ci siano spoiler sulla fine dei videogiochi. Vabbè, quindi sono spoiler nel senso attaccatevi. Che... Allora, io, no, finora non abbiamo spoilerato nulla di troppo grave, secondo me. Cioè, per ora non mi sembra di aver spoilerato nulla. Quindi diciamo da ora... Bruce Willis ci sono alcuni spoiler. Io cerco di non spoilerare esattamente cosa succede, se è un gioco recente o che molti non hanno giocato. Però un po' descrivo perché secondo me fa schifo. Tipo Arkham Asylum, il gioco è bellissimo, le meccaniche sono bellissime, il finale è una boss battle secondo me riciclata da altri nemici come enemy type, come tipologia di nemico, come tipologia di combattimento, è riciclata da un combattimento che c'è tipo all'inizio del gioco, e anche quello che fa a livello di trama, boh, cioè sembra un finale boh quasi da fumetto vecchio stile, cioè dove non si risolve nulla, non lo so, è molto... Secondo me è sbagliato per quel gioco, anche come meccaniche, non solo come trama. Oblivion, beh, io forse mi ricordo male, però mi sembra che il finale di Oblivion sia tu che prendi un'armatura. Cioè, nel senso, tu vai da un fabbro, lui ti dà un'armatura e il gioco è finito. Però forse mi ricordo male io. La cosa che mi ricordo è che il finale mi ha fatto schifo. Sarà perché il gioco ce l'avevo in francese, ma questa è un'altra storia. Questa è tutta un'altra storia. che non voglio, non voglio spiegare qui perché c'è Sala che mi ascolta, però il finale di Oblivion me lo ricordo come una cosa proprio deludente, però forse tu mi sai correggere su questo. Io faccio fatica a ricordarmelo anch'io in questo momento. Vabbè, Oblivion non lo spoileriamo, però c'era questo erede, questo re, che chiudeva un po' questi portali di verso, appunto, verso l'Oblivion, no? Verso l'inferno, mm-hmm. che c'erano un po' tutto in tutto il mondo. C'era l'uscire. Mi sembra, Faceva l'uscire, esatto, faceva uscire i demoni. Mamma mia. E io mi ricordo che questo finale era tu che ricevevi questa armatura, ma forse perché io avevo fatto una scelta, non lo so, magari è colpa mia. Se qualcuno è fan di Oblivion e mi vuole insultare, scriveteci una lettera fisica. Continuiamo a dirlo, vogliamo essere insultati, ma nessuno ci scrive. Nessuno ci scrive, infatti io non c'è nessun insulto, forse è perché è evidente che siamo troppo bravi. Mass Effect 3 l'ho messo come finale cattivo perché è riconosciuto, diciamo, universalmente come finale cattivo. Secondo me c'è di peggio, ma effettivamente, considerando un po' tutto quello che è la storia che c'è dietro, posso solo dirvi che quando è uscito la prima volta il finale, prima di ricevere una patch, perché sì, hanno patchato il finale, hanno fatto una patch per il finale, erano tre finali uguali dove cambiava solo il colore del filmato finale. Uno era verde, uno era rosso, uno era blu. Solo il colore. C'era tipo questo colore, capito, che era tutto un... come tipo bianco e nero, una specie di... cose di filtro alla Instagram. Hanno cambiato poi il finale. Io ho giocato quello con la patch, dove un po' più vedi le conseguenze delle scelte che hai fatto prima, perché comunque è una trilogia di giochi dove le tue scelte sono molto importanti. Mass Effect un gioco di fantascienza, RPG, vabbè. La cosa figa di Mass Effect era poter influenzare la storia molto, cioè parecchio, con le tue scelte, con le tue azioni, con le tue, insomma, come giochi, i personaggi che muoiono, eccetera. Nel 3 il problema era che molti si erano lamentati perché appunto i finali erano identici, e quindi se magari avevi salvato delle persone in Mass Effect 2, nel 3 non aveva nessun effetto nel finale vero e proprio. Ma la cosa che ha fatto incazzare me è che erano tre finali apparentemente uguali, cioè giusti, ma uno era quello vero, e tu avevi davvero pochi strumenti per capire qual era. Non posso spoilerare quale o perché, però uno di quei tre finali in realtà poi si è scoperto. E questo è un altro esempio di brutto finale nel caso dei finali multipli per i videogiochi, in cui, secondo me, è un po' brutto quando ti accorgi che effettivamente solo una delle storie che hai deciso di influenzare è quella, aperte virgolette, giusta, chiuse virgolette. Perché poi, come dire, come si dice, rende molto più banali le altre, no? Le rende molto più, molto meno importanti rispetto a... Sì, no, esatto, posso dire, ti rovina un po' la tua... quella che è la tua storia, e consideravi la tua storia, no? Ti diceva, ma allora non valgo niente, non vale nulla. Vero. Il prossimo voglio chiedere a te. Ma Fallout 3? Guarda, ma sai che io c'ho anche, sempre perché non ho mai un cazzo da fare, giustamente. Ogni tanto mi fermo lì a pensare, perché... perché dicono tutti che Fallout 3 è così... è molto peggio di Fallout New Vegas, e forse anche che almeno sono arrivato alla mia conclusione un po' personale così. Se tu guardi nei giochi che hanno fatto in generale la Bethesda rispetto a quelli che hanno fatto l'Obsidian ambientati nel mondo di Fallout, una cosa che si nota molto del finale del 3, che la lamentela principale, che, come dire, è molto forzato. Sì. In un gioco che dovrebbe essere appunto RPG, aperto, potresti fare quello che vuoi, tu ti ritrovi alla fine di tutto che c'è da premere un interruttore in una stanza ricolma, esatto, di radiazioni, e tu sei l'unico eletto che a quanto pare lo può fare così. Non è vero. E a parte il fatto che ci sono vari motivi, secondo me, che per cui la gente si è lamentata, del tipo E quello principale, appunto, che come dire, il finale rompe un po' il gioco, inteso che ci sarebbero mille modi per proteggersi dalla radiazione, ma in questo caso non si può fare. Cioè, tu avresti alleati, esistono persone immuni alle radiazioni che potrebbero entrare nella camera al posto tuo. Tra l'altro, il miglior personaggio di quel gioco, voglio dirne indenni, e però dicono: ah no, questo è il tuo dovere, tocca. Posso dire una cosa? Cioè, il protagonista di Fallout 3 c'ha un complesso del messia, cioè si pensa, oh, tutto ruota attorno a lui, ma che bravo, è, oh! Perché esattamente quello, secondo me, l'errore principale che ha fatto la Bethesda con Fallout 3. Però se tu guardi gli altri giochi di Fallout, quelli erano veri RPG, perché tu, quando cominci il gioco, non sei nessuno, ma letteralmente non sei nessuno, cioè, per dire quello che Fallout New Vegas sono quelli... Sì, la sì, controparte sì, che si prende proprio da esempio, tu inizi il gioco in cui hai perso la memoria, quindi il più classico degli inizi, però hai perso la memoria e non sai veramente chi sei, puoi decidere di, come dire, scoprire quello che eri prima, semplicemente andare in giro per il Mojave a sparare a mutanti e fare cazzo che ti pare, mentre no, invece nei giochi della Bethesda tu sei l'eletto, no? Sei il classico eroe di tutto quanto, che secondo me per un vero RPG è sbagliato, perché non sei tu che scrivi la tua storia, ma la tua storia è veramente già stata scritta in questo caso, perché se non ci fossi stato tu che uscito dal Vault, cos'era, 101, non ricordo, che andava a salvare tutti impedendo la distruzione, sì, sì, bla bla bla. Come continuava la storia? Cioè, che tu dovevi salvare tuo padre, che doveva purificare l'acqua. Mamma mia, lasciamo perdere. In un gioco RPG, il finale, non che non fosse, in questo caso, al contrario di Oblivion, che, come dicevi tu, sembrava molto banale, non sembrava fatto bene, perché dovevi solo prendere l'armatura. Qua il finale è epico, però non lo senti tu come protagonista. È una no, cosa che poi c'è quel filmato alla fine, no? Sì, giusto, vabbè, parlando anche del filmato alla fine. Nel senso, cioè, quella è la mia interpretazione, però aggiungi pure per il filmato alla fine. Che... No, c'era quel filmato dove ha tipo tutta una cozzaglia di cose che avevi fatto prima di finire il gioco. Assolutamente, cioè, buttato lì senza motivo, cioè, che non chiudeva nulla in realtà, era solo descrizioni. Vabbè, scusate, andiamo avanti. E anche lì, piccola... digressione. Aneddoto, no, aneddoto solo. Cioè, il finale lì, che tutti anche lì, come dire, ne parlano male delle varie fotografie, no? Dello slideshow finale. Fatto un PowerPoint. Oh, esatto, il PowerPoint finale. Cioè, in realtà l'hanno fatto perché era un classico dei giochi di Fallout, c'era una cosa simile fin dal primo, cioè quello c'è, solo che negli altri giochi Fallout il finale aveva più senso, perché ti raccontava tipo cosa avevano fatto dopo la tua dipartita gli altri personaggi, come si era evoluta la storia, cosa era successo nelle varie città, eccetera, eccetera. Per cui anche lì Bethesda, un po' ci hai lasciato... un po' pelati, diciamo. Andando avanti velocemente, Far Cry 5. Allora, Far Cry è famoso per avere questi cattivi che... per tutto il gioco ti insultano, ti uccidono, ti ammazzano la mamma, così, e alla fine, in realtà avevo ragione, cioè il finale era, in realtà questo cattivo non era poi così cattivo, c'era un motivo, aveva ragione, eccetera. Il finale di Far Cry 5 è, in realtà alla fine il cattivo aveva ragione, ma non nel solito modo che dici, non sapevi tutto del cattivo, non sapevi le sue vere ragioni, non sapevi cosa stava davvero facendo, quindi, forse dovevi farti più domande su quello che facevi tu. No, cioè è completamente folle, semplicemente alla fine vince, e non è neanche una vittoria, dici, oh, dovevo aspettarmelo, oppure, oh cavolo, hanno finalmente fatto un gioco dove il cattivo ha l'ultima parola. No, è solamente shock value, cioè non c'è niente dietro, hanno fatto una cosa secondo me troppo per fare gli artisti, capito? Su un gioco che secondo me non lo supportava, cioè non era abbastanza. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti. Far Cry 5 finale, non voglio parlare. Quello successivo era di nuovo mio, che era sì. Moonlighter, che era uno dei giochi. Come effettivamente che più avevano un finale tra quelli che avevo giocato, inteso che era proprio previsto che ci fosse abbastanza un finale a tutto quanto, che non, in realtà non è proprio il mio genere di giochi, sono più per quelli un po' più, come diciamo prima, quelli un po' senza finale. Però questo mi è capitato di giocarlo, aveva una premessa molto interessante e sono rimasto abbastanza deluso per il finale, almeno nella versione che ho giocato io, perché poi so che è stato patchato varie volte, è stato espanso, quindi magari adesso è completamente diverso, ma nella versione che mi è capitata di giocare a me, un gameplay che sembrava molto più profondo di quanto non si era poi rivelato, è stato concluso con una storia abbastanza banale e anche senza, come dire, senza... banale è proprio il termine che gli si dice di più, non so come altro mettere, perché presente, no, come diceva Jacopo, come diceva te l'altra volta, il meme Aliens riassume perfettamente così dal nulla perfettamente la storia. Abbastanza. Quindi sì, sono stati gli alieni. Ok. Quindi, tutto qui. Quindi il solito gioco che finisce così con la supercazzola dal nulla. E un altro gioco che finisce con la supercazzola dal nulla è Star Wars The Force Unleashed 2, Il potere della forza 2, che è un gioco talmente brutto che in realtà forse non si merita di essere qui, ma mi ricordo che il finale mi ha talmente fatto incazzare che nonostante il gioco durasse penso tipo 4 ore, avrei voluto, cioè, durasse veramente 10 minuti. Non voglio neanche parlare, non voglio neanche descrivere il finale perché è bella questa parte. Insulta la tua intelligenza. Andiamo avanti. È bella che in questa parte, diciamo che non vogliamo parlare di questa parte. No, cioè, io ce l'ho fatto. Mi viene il cancro, cioè, mi viene proprio male al seguito. L'ultima cosa che volevo dire è Assassin's Creed Odyssey. È stato il finale che uno dei finali che più mi ha fatto incazzare, che più mi ha fatto dire no, ma veramente, mi stai prendendo per il culo. Cioè, e ci metto anche Control, fammi scrivere Control, però a differenza di Control, almeno, come posso dire, allora, non so chi dei due è peggio, però vi descrivo la situazione. Immaginate di finire un gioco e il gioco non finisce. Cioè, la storia non finisce, non si capisce bene cosa devi fare dopo, puoi un po' andare in giro, fare altre cose, però la storia non va avanti. In un caso, il gioco ti dice, hai finito la storia principale, compra questo DLC dove la storia continua. E lì ti incazzi. Nell'altro non ti dice niente, però gli sviluppatori se ne escono. Dopo un mese dicono, usciranno delle espansioni in futuro dove la storia andrà avanti. Nel primo caso, senza vergogna. Nel secondo caso... un po' sono vergognati, però l'hanno fatto comunque zitti. Ormai è un trend del mercato che... Vabbè, anche qui non voglio parlarne, andiamo avanti. Se mi posso permettere, secondo me con Control in questo caso, ok, bastardata che ci sia maggiore storia nei DLC, proprio storia principale nei DLC. Però comunque c'è tecnicamente un finale più o meno, anche se non esorbitante, c'era stato anche nel gioco base. Quindi non lo so, per me io lo metterei, io personalmente lo metto nel me, che nel, piuttosto che in quello okay. Cattivo. Sì, diciamo che Control ha il vantaggio che la storia principale comunque c'ha una mezza conclusione, mettiamola così. Quindi un minimo più conclusivo lo è. Assassin's Creed Odyssey no. Cioè, la storia principale... No, abbiamo già parlato. Sono assolutamente d'accordo con te. Ne abbiamo già parlato. In Assassin's Creed ci sono due storie, in realtà. C'è la storia interna, ovvero la storia dentro all'Animus, che è questo meccanismo che ti permette di rivivere memorie di persone nel passato. Quindi c'è la storia di Cassandra, che è una tizia greca, mercenaria, che ha i suoi cazzi, ha le sue cose da chiudere, ha problemi di famiglia, problemi di... Sparta. Poi c'è una persona, una tizia, agente della, diciamo, nel presente, che sta rivivendo queste memorie per un motivo ben preciso, quindi sta cercando informazioni, sta cercando delle cose. Il problema è che quella storia nel presente non finisce, cioè c'è una mezza scena, molto mezza conclusiva, ma per Cassandra, non per la protagonista nel presente. Quindi, boh, vabbè, lasciamo perdere, ok. Andiamo avanti, per favore. Per favore, fammi andare avanti. Poi abbiamo detto... Quindi, una volta concluso il non parlare di della esatto. parte cattiva, arriviamo ai me. Ora, non parliamo del me. Arriviamo okay. a non parlare dei giochi in me. I giochi... Ma, vabbè, finito. Per me il primo Bioshock è così. Devo dire, devo essere sincero. A me, Bioshock è un gioco che il primo mi è piaciuto tantissimo, ne parlerei all'infinito e ne parlerò all'infinito in un episodio a parte, molto, molto, molto sapio, con una parola molto sapio che descriveremo in futuro, ma il finale, no, cioè il finale ci sei tu contro l'omino degli Oscar argentato enorme che ti picchia e tu lo picchi e basta, e poi c'è un filmato. Non usi molte delle meccaniche del gioco, a livello di trama pure è semplicemente un picchiarsi. Anche quello che c'è dopo è una risoluzione per me troppo bonacciona o troppo... Dipende, insomma, ci sono anche le due finali, ma sono due finali un po' scemi, secondo me, entrambi. Quindi, diciamo, la cosa positiva è che non sono finali diversi, dove uno è giusto e uno no, però la cosa negativa è che tutto il resto fa un po' schifo. Per me. Senza dire altro, non so se tu avevi pure un'opinione su questo finale di Bioshock. Penso che... Come dire... Tu lo preferisca di più che lo di me. Vorresti proprio cattivo, cioè lo vorresti insultare ancora di più. No, nel senso che no, inteso era da intendere come tu sei come dire, una risposta più emotiva, personale, non so come definire, ma più forte della mia. Quindi a me è piaciuto assolutamente il gioco, però nel senso mi fermo lì, non ho opinioni. Ok. Forti per dire. Ah, bravo, ok. Raro, ok. Però vabbè, forse questo mi conferma ancora di più che finale, cioè lascia il tempo che trovo, insomma, com'è questa categoria. Poi volevo dire, in realtà nella stessa categoria volevo mettere un po' Inside e Alan Wake. Ora so che Luca già mi sta insultando perché Alan Wake... è uno dei finali più memati fra di noi, cioè, capito? Ogni volta che un film finisce non si capisce niente, non è un lago, è un oceano. Perché l'ultima frase del gioco è non è un lago, è un oceano. E voi starete pensando, ma spiegaci che vuol dire. No, perché il gioco non lo spiega, cioè sta lì, lo dice, e basta. Cioè, il gioco cioè nessuno sa davvero quello che vuol dire. Ovviamente ci sono teorie, ci sono delle... magari l'acqua era salata? Possibile, boh, l'acqua del lago era salata, non lo so, però... cioè, vabbè, in realtà c'è un po' di contesto, ma non ve lo dico perché non voglio spiegarvi, perché comunque il gioco è bello, secondo me. Rimane un gioco bello, con una storia bella, un'atmosfera bella. Guardatevi The Lost Room, che Marco mi ha consigliato e aveva ragione, che è un bel telefilm. Guardatevi se potete anche Twin Peaks e poi giocate Alan Wake, molto, molto companion game, si accompagna bene, però sia Alan Wake che Inside non danno molte spiegazioni per il finale. In entrambi i casi comunque puoi cercare online che bordi e poi lo trovi. Cioè una spiegazione la trovi. Nel caso di Inside forse la spiegazione è più bella e il finale è proprio per Google in questo modo la romana. Cioè nel caso di Inside dici poi capisci il finale e dici cazzo che figata, bellissimo. Nel caso di Alan Wake un po' di meno, perché effettivamente non finisce. Però vabbè, andiamo avanti. Giochi invece dove sono più sicuro che sia un finale di merda sono Halo 2 e Portal. Qui mi prenderò degli insulti. Allora, Halo 2 perché? Perché non finisce, cioè il finale è Halo 3, gioca Halo 3. Il finale di Halo 2 è molto... ok, è finito, anche perché il gioco è più corto degli altri. Il finale ce ne stanno due per due, diciamo, storie diverse, ma è uno solo, cioè il gioco è lineare, sono solo due personaggi in parallelo. È così, finale molto aperto, infatti, cioè, quando l'ho visto ormai 16 anni fa, stavo schiumando e ho detto, no, come? Adesso devo aspettare. E invece Portal il problema è stato più, diciamo, considerato il gioco che c'era prima, il combattimento finale è un po', cioè secondo me è un po' brutto, e quello che c'è dopo il combattimento, quindi la canzone, lo salva un po'. Porta l'uno, giusto? Certo, porta l'uno, sì. Certo, sì. Sì. Lo salva un po'. La canzone, scusami. Per me la canzone lo risolleva un po', perché la canzone ti dà un po' più di quel senso di irriverente che c'era prima, no? Cioè, ti dà un po' più di indizi su quello che è successo. E qui arriviamo a una cosa che invece mi ha fatto notare Marco, quando ne stavamo parlando, mi ha mandato un link a una canzone. Parliamo di vecchi giochi, specialmente di Super Mario, che i finali erano, come dire, grazie per aver giocato, ora se vuoi ricominciare, boh, fai un po' come vuoi. Non so, cioè i finali di una volta erano un po', come dire, buttati lì, non so. Avevano finito i soldi, boh, non so perché, sinceramente. Erano un po' più limitati. E... Forse un tempo si dava più importanza al gioco in sé che al finale, alla vera storia. Perché alla fine quelli lì erano molto giochi arcade, inteso. Tu non giochi Super Mario per la storia di Super Mario. Giochi Super Mario perché sono divertenti i livelli, è molto divertente il level design, anche i personaggi di trasformazione, cose del genere. È la storia, voglio dire, anche se poi finisce tutto che era un sogno, te ne frega il giusto. Almeno questo è il mio punto di vista. Ho capito. Ma invece... Ah, mi sa che i prossimi due volevi parlare tu, in realtà. Skyrim e Journey. Aspetta, Journey l'avevo corretto, che non era Journey, era coso. Era... Enslaved Odyssey, che avevo chiamato io Journey per sbaglio. Sì, hai ragione, scusami, mi sono scordato. Stavo pensando. Skyrim, non lo so, vorrei parlare perché in realtà... Ne parliamo sempre. Il momento Skyrim è quasi come il momento cugino in ogni puntata, però... Ci sta da dire che Skyrim non l'ho mai finito tecnicamente. Perché sono sempre stato uno di quelli che ha iniziato il gioco, poi iniziava a fare puttanate, e la storia principale non l'ho mai finita. Quindi la mia critica in questo caso è questa, quando o che la storia principale è così poco epica che si perde in mezzo a tutto il resto, che tutto il resto è così tanto epico che eclissa la storia principale. Può essere questa forse una specie di critica a Skyrim? Che ne dici? Tu dici, fai una cosa, capito, bonaria, bonacciona, ho capito. Certo, però qua bisogna aver detto, rispetto a molti altri titoli della Bethesda, che non hanno fatto lo stesso, almeno secondo me non hanno fatto lo stesso errore del, per esempio, di Fallout 3. Cioè che in questo caso effettivamente anche tu parti come veramente un nessuno in Skyrim. Perché se ci fai caso, non diventi Dovahkiin a meno che non segui la quest principale, perché tu quando esci tecnicamente dalla prigione puoi già andare dove vuoi e non sei ancora il Dovahkiin. E quello ho trovato fatto meglio rispetto a Fallout 3, che uscendo dal Vault sei già il figlio del che deve salvare il mondo, eccetera. Ok, è vero, hai ragione. Quindi su quello, pollice in su. Okay. Per Enslaved Odyssey to the West, qua avevo accennato una critica la volta scorsa mentre stavamo preparando la puntata, perché era un gioco che ho giocato parecchio tempo fa e mi era piaciuto veramente tanto per l'epoca, con questa trama presa dal Journey to the West, che era la saga cinese, se non sbaglio, no? Quella a cui è stato ispirato anche Dragon Ball. Mi era veramente piaciuto tanto, e poi il finale gli dà molto quella sensazione di, non so, forse avevano finito un po' i soldi, forse avevano il tempo di produzione, chi lo sa. Però sì, nel senso, il finale sembra molto veloce. Sai quando dico, oh cazzo, ma sono già le 3, dobbiamo partire tra 20 minuti che dobbiamo chiudere qua, e non so, a me ha dato quella sensazione. Ok, però, ci sta. Come ho detto, ci ho giocato parecchio tempo fa, quindi potrei anche andare. Ci sta, e quindi direi di passare ai finali buoni. Adesso finalmente possiamo chiudere in bellezza. Di morale. e fare fangirling, e fare un po' di urletti. Allora, partiamo da alcuni finali più celebri, secondo me, più che ci togliamo, perché diciamo, ok, so belli, avete ragione, andiamo avanti. Secondo me Bioshock Infinite, perché è un finale che ha, a livello di trama, allora a livello di gameplay in realtà manco mi ricordo, ma Bioshock Infinite come gioco in generale, sia gameplay che storia, vabbè, ci sta, ok, andiamo avanti. Il finale ti cambia tutta la percezione del gioco e del primo Bioshock anche, ti cambia tutto quanto il senso del gioco, ti cambia il protagonista, ti cambia... È veramente uno di quei finali che più... Cioè, è come Alan Wake, secondo me, però fatto bene. Cioè, Alan Wake a me, vabbè, è piaciuto, me sono malato. Però, oggettivamente, è un finale che magari ti confonde all'inizio, però poi più ci pensi e più ti devasta. Cioè, il finale è veramente devastante su più livelli. A livelli di trama, di lore, a livello emotivo. E non sto qui a raccontarlo, anche perché è complicato da raccontare. Però proprio... ti rende effettivamente in molti sensi ti rende un po' il cattivo della tua storia, ti fa capire molte azioni che tu hai fatto e molte delle motivazioni del protagonista e ti a me ha sconvolto come finale, ancora ogni tanto ci ripenso, è veramente figo, ti rivela tante cose anche a livello di altri personaggi, di lore, ma vabbè, non posso dire altro. Bello che no. I finali che ogni tanto ti ritrovi a pensarci un po' così a tempo sì, perso. Esatto. Sì, è un segno, stavo dicendo, un buon finale o di un finale che ti ha talmente fatto incazzare tipo Odyssey, che ogni tanto dici porco due. Comunque, Prince of Persia, Sands of Time, secondo me è carino come finale, è come dire, è un finale che non è un vero finale perché è nascosto nella storia, è un finale che puoi intuire fin dall'inizio ed è questo anche il bello e lo rende molto poetico, molto anche collegato alle meccaniche del gioco e alla storia che cerca di raccontare. Non sto qui a dire altro, perché vabbè, se ci giocate lo capirete immediatamente il finale. Mass Effect 2, finale, secondo me, per il gioco che doveva essere, è fenomenale, perché diciamo che, al contrario di Mass Effect 3, qui da ogni scelta davvero gioca un ruolo nel finale, ma davvero importante come ruolo. Perché Mass Effect 2 è strutturato in modo che tu hai un finale che puoi attivare subito, hai l'ultima missione che puoi attivare subito, ma l'esito della missione e il destino dei tuoi compagni dipende da cosa hai fatto prima. Quindi se tu hai più compagni e per ogni compagno fai un po' la storia associata, quindi cerchi un po' di risolvere gli loro cazzi, per dirlo. Cioè nel senso, se tu vai da queste persone, cioè tu... hai delle persone nella tua nave, perché Mass Effect hai una tua nave, una navicella spaziale, vai in giro e poi arruola delle persone, poi venimi a dare una mano, aiutami così. In base a quanti e quali persone hai interagito, hai sviluppato una relazione, hai cercato di risolvere dei problemi, delle cose irrisolte che avevano, così il finale cambia. Non sto a dire altro di chi e come, però è molto bello perché... è anche organico come cambia il finale in base a chi e come. Mm-hmm. Non so come dirlo meglio, però senza spoilerare. Quindi se potete giocare ai primi due Mass Effect, secondo me sono ancora bellissimi a livello di trama. A livello di gameplay fanno un po' cagare, però a livello di trama sono bellissimi. Halo 3 e Halo Combat Evolved hanno un po' lo stesso finale, con livelli di epicità altissimi. Halo Combat Evolved lo metto più come nostalgia, Halo 3 secondo me è riuscito un po' meglio. Halo Reach penso che sia uno dei finali più come dire sconvolgenti, non perché sia questa grande novità, sicuramente altri giochi hanno fatto prima, però è un finale che non ti aspetti in un gioco del genere, magari se sai la storia, sai cosa è successo a livello di lore te lo aspetti, ma comunque a livello di gameplay non è mai successa prima una cosa del genere, non posso dire altro. Quindi anche qui, scusate, ma cioè, è difficile bilanciare cosa posso dire e cosa no, a livello di... È quella volta in cui parliamo, non parlando. Esatto, questa la lascio fumosa apposta. Poi non voglio rompervi le palle, Shadow of the Colossus, bellissimo, anche lì chiude un po' in maniera... come dire, enigmatica, ma comunque di efficacia, secondo me, la storia di come Bioshock Infinite. Arkham City, qui c'è il ritorno di Batman, come dicevo prima, no? Il finale di Arkham Asylum è una cagata, il finale di Arkham City invece è molto potente, secondo me, a livello di mm-hmm. cosa vuol dire per il futuro della serie, per chi è Batman. Cioè, è un finale molto interessante, anche a livello di gameplay mi ricordo che era carino, niente di che, però un po' meglio del precedente capitolo. Qui, allora, qui arriviamo a... come posso dire, a cose... Allora, prima mi tolgo una cosa, scusa. Prima mi tolgo un shout-out. Voglio fare uno shout-out, una specie di... Come si dice quando tu dici shout-out in italiano? Un richiamo, oddio. No? Un richiamo, un... Non lo so come dire in italiano. Un termine in italiano, sai? Vabbè, comunque voglio dire a Luca, in onore di Luca, Shadow of War ha un finale che... eleva il gioco che c'è prima. Cioè, Shadow of War ha un finale che non è solamente degno del gioco che c'è prima, ma se non ci fosse quel finale io avrei odiato il gioco che c'era prima. Stessa cosa per Spec Ops The Line, Firewatch e Gone Home. Sono giochi che non posso dirvi nulla, o quasi, se non di avere la pazienza di finirli, perché il finale... cambia veramente, cioè ti rende il gioco un capolavoro. Perché, non posso dirlo, però in Gone Home, in Firewatch e in Spec Ops Line hai una storia di questi protagonisti che pensano che stia succedendo qualcosa, ma in realtà questa cosa non è vera, c'è un'altra verità sotto. E il finale è anche un modo meta... ludico, cioè è tipo una specie di commento sul videogiocatore, non solamente sulla persona, sul protagonista che stai giocando. Quindi non voglio dire niente perché sono veramente... Poi Spec Ops Line è una presa per il culo incredibile, perché il gioco sembra, da fuori sembra tipo Gears of War, cioè una cosa, capito? Ah, spara spara, ammazza ammazza, militaristica, il finale è tutto l'opposto, è una cosa spettacolare. Ce l'ho fuori anche a livello di gameplay, cioè magari ti rompi un po' le palle perché è un po' ripetitivo prima, però il finale giustifica tutto, è molto bello. Undertale invece è tutta un'altra storia. Ora, io dovrei fare un episodio solo su Undertale. Effettivamente. Cioè, c'è troppo da dire sul finale di Undertale, sul gioco di Undertale. Il finale non ce n'è uno solo e la relazione fra i finali è complicata. Ma a me ha fatto... Io ho avuto lacrime e lacrime, ho versato tantissime lacrime sul finale di Undertale, di non so di cosa, di gioia, di tristezza, di tragedia, non so di cosa, sinceramente. E un altro gioco dove ho versato lacrime è Colli McRae Rally Dirt 2. Vi spiego, cioè in realtà non mi sto prendendo per il culo, l'ho fatto davvero. Io ho giocato, a me piacciono i giochi di rally, quindi ogni tanto prendo, ci gioco, ok. Prima, qualche anno fa, ci giocavo molto di più, adesso gioco un po' di meno, anche perché i giochi di guida un po' li ho persi un pochino, quindi sono un po' più scarso di prima. Quindi, che ne so, ho giocato Rally Sport su Rally Sport Challenge su Xbox, ho giocato ai vari... Richard Burns Rally, Colin McRae, quando si chiama proprio solo Colin McRae Rally, eccetera. È uscito questo Dirt, questa nuova serie che adesso si chiama solo Dirt, quando ancora Colin McRae era vivo, è uscito il primo capitolo, mentre, mi sembra, non penso, cioè spero di ricordare bene, mentre sviluppavano Colin McRae Rally Dirt 2, lui purtroppo è venuto a mancare. Non mi ricordo se per un incidente con un elicottero, un incidente stradale, non mi ricordo purtroppo di preciso. Io ho giocato questo gioco non ricordandomi, cioè l'ho giocato come se fosse un altro gioco di Rally Dirt e così mi sono divertito così. Il problema è che quando finisci la campagna, quando finisci la carriera, c'è un filmato dedicato a Colin McRae, che era questo pilota di rally famosissimo, campione internazionale. E io stavo lì in lacrime, filmato fatto da Dio, con tutti i suoi achievement, le sue gare, le sue varie, diciamo, prodezze. E, cioè, capito, perché non te l'aspetti, cioè ti arriva dal nulla, tu stai lì, giochi un gioco di auto, di rally, ah, figo, ho finito la carriera, e ti sparano questo filmato, adesso mi sono ricordato. Non è che tu sei così appassionato, diciamo, di Lenny, così. Che bella storia. Dite al, ascoltare, no, vedi, ci sono anche storie molto... Oh, molto... Inaspettato. Oh, wholesome. Inaspettato. Molto wholesome. Ha scritto Odyssey, porca troia. Comunque, vabbè... E questa, insomma, è la mia storia molto inaspettata. Poi, non so, ultimamente i giochi più recenti che mi sono piaciuti tantissimo, i finali, sono Ori, The Will of the Wisps, molto carino, vabbè, anche lì Lacrimoni, mm-hmm. e Outer Wilds, molto Lacrimoni, ma esistenziali. Esatto. Lì niente spoiler perché lo devo giocare. Niente spoiler perché non posso dire nulla, nessun'uno né sull'altro, soprattutto Outer Wilds che devo costringere Marco a giocarci. Non devi costringere, devi solo aspettare che vi faccio un PC migliore. Fatti Xbox la serie S, che lì ci puoi giocare con Game Pass. Questa è pubblicità alla Microsoft. Microsoft, se vuoi sponsorizzarci, ci va bene anche una fetta di pane, probabilmente, come prezzo. Per... E poi vabbè, gli ultimi sono tutti tuoi. Vabbè, gli ultimi, alla fine è solo uno solo che volevo citare, che... No, The Last of Us e quell'altro, e Obradin. Ah, ok, ah, anche The Last of Us, hai ragione. Beh, vabbè, The Last of Us, devo dirlo io, che è un bel film. quelli che ci stanno ascoltando, ah, oh, a quelli che ci stanno ascoltando, non avete ancora giocato The Last of Us? È uscito il 2, dai cazzo, cioè, hanno fatto tutti la maratona dell'1, ci sono stati tipo 26 persone su YouTube e Twitch che hanno fatto la maratona dell'1 perché sta uscendo il 2. Ah, quale consigli? Quale consigli? Okay. Sabaku, consigliamo Sabaku. Vabbè, se volete proprio andare, poi fatti bene, consigliamo Sabaku, però sì. Nel senso, l'1, il finale dell'1 mi è veramente piaciuto, ma proprio come opera narrativa, eliminando un attimo il gameplay, che carino, divertente, sì. Quello che okay, no, non male assolutamente, gameplay interessante, però cioè, io personalmente un gioco così non lo giocherei solamente per il gameplay. La storia fa tanto veramente un bel finale, ma un finale che mi ha veramente colpito. E come dicevi prima, no, quando ti capita di ripensare ogni tanto ai finali, e a me ogni tanto capitava di ripensare a quello di The Last of Us. Quindi The Last of Us mi ha veramente... Non so neanche, ho perso le parole. Comunque, wow, il secondo potenza, invece. Che potenza! Questo sembra tipo pomeriggio 5 o domenica. Il secondo invece, che doveva essere il primo prima che Jacopo mi parlasse della Sovas, è un gioco che mi è capitato di giocare sempre perché è regalatomi da, in parte anche da mio collega qui presente, che è Il Ritorno dell'Obra Dinn, un gioco di praticamente non proprio enigmi, però diciamo ecco, forse il termine più corretto è investigativo, che abbiamo assolutamente fatto male a non citare nell'episodio precedente su porco due sugli enigmi e i puzzle. A un gioco di investigazione dove appunto sei tu nei ruoli del protagonista, che nel ruolo del protagonista, che è un ispettore delle assicurazioni, si fa molto ridere a dire così, però tu sei l'ispettore di una compagnia assicurativa che va a esaminare questa nave, l'Obra Dinn, che è ritornata priva di equipaggio in porto dopo un viaggio verso l'Africa, se non ricordo male. No, le Indie Orientali forse, è una roba molto... Sì, poi, 800, esatto. 700, 800, cioè molto... non è moderna, insomma. Sì, è ambientato un po' tipo nell'800, cose del genere. E a parte le meccaniche di gameplay, appunto, dell'investigazione, che sono estremamente originali, che avremmo dovuto parlare nell'episodio precedente. Ma parliamone adesso, dai, sprechiamo 2 minuti, dai, 100 parole, okay, vai. È giusto. Con l'utilizzo di questo magico artefatto, simile a un orologio, tu, protagonista, puoi esaminare i cadaveri che ritrovi in giro per la nave, e esaminare il momento nel tempo in cui sono morti. E esatto, da lì come fosse una foto, no? Esatto, foto. Come vedere una foto del momento in cui loro sono passate miglior vita. E dagli indizi che trovi in queste varie istantanee, devi riuscire a ricomporre il destino di tutto l'equipaggio della nave. Però in queste istantanee ti puoi muovere, cioè è tipo... Esatto, sì, no, nel senso puoi esaminare, da un'istantanea puoi arrivare a un'altra istantanea, eccetera. È molto più complesso di come lo sto descrivendo. No, però dico, cioè, ogni istantanea non è solamente una foto, è proprio una specie di... piccolo livello. È un piccolo livello 3D, esatto, più, un pochino più limitato della nave, perché la nave è abbastanza grande, però c'è una specie di zona intorno a chi è morto che è esplorabile. Utilizzando tutte queste informazioni che raccogli, andando per esclusione ed eliminazione dei componenti della nave, puoi ricostruire per intero il destino di ogni singolo membro dell'equipaggio, che non sono neanche pochi, mi sembra siano tipo una sessantina di persone o giù di lì, che già a pensare come cazzo quello che l'ha fatto, quello che l'ha scritto, che tra l'altro è l'autore, non sbaglio, di Paper Please. Sì, sì, lui è un genio. Io mi inchino a lui, perché come cazzo ha scritto una roba del genere. Anche Paper Please, un altro gioco che ci siamo scordati, mi sa, porca troia. Gioco però dove, quello vabbè. Che... No, giusto per tornare in carreggiata, giusto per dire che il finale mi è piaciuto veramente tanto, perché come... Lì ti dava veramente l'ultimo pezzo del puzzle, concludendo la storia e chiudendo tutto quanto, però utilizzando ancora le meccaniche del gioco in un, come dire, un tripudio, no? Nell'apoteosi finale di tutto quanto, di come del chiudere, tu sai di aver chiuso il libro che dovevi compilare con tutte le morti, eccetera, eccetera, mettere l'ultimo punto e voilà, hai terminato tutto, hai capito com'è andata, è stato geniale, fantastico, quello mi è veramente piaciuto. No, beh, quel tizio è un genio. A livello visivo è una cosa mai vista, perché è tipo un gioco puntinista, verde e nero. Penso sia ispirato tipo alla grafica dei vecchi IMAX o comunque i primi computer. Hai capito, Salla? No, questo è molto hipsterino come gioco, perché non solo la grafica è molto retro, così. È comunque un gioco 3D. E anche a livello di meccaniche, cioè, è molto... mi è sembrato un gioco vecchio stile, proprio solo di investigazione pura, cioè di griglie logiche. Tu hai delle persone che devi semplicemente capire chi sono e come sono morti. Ma dentro c'è tanta di quella roba di... non spoilerò niente, perché lo vedi all'inizio. Una delle prime morti vedi che a un certo punto la nave è stata attaccata da un Kraken. Quindi fin da subito il gioco ti fa capire che c'è qualcosa in più. Che tu dici, ah cavolo, questo c'ha l'orologio della vita, questo artefatto magico, e poi fa l'agenzia, cioè l'agente assicurativo, ma che è? Cioè è una cosa banale, invece no, c'è molto Lovecraft, c'è molto di trama dietro, non detta, è proprio tutto implicito, è tutto da capire, da intuire in base alle frasi dette alle persone, no, è bellissimo, è veramente, no, è veramente un peccato capitale che non abbiamo citato nella puntata prima. Io spero, è proprio uno dei miei desideri, che faccia magari, non dico uscire un seguito, ma tipo un gioco che usa le stesse meccaniche, scritto altrettanto bene, magari non so come possa riuscire a farlo anche più grande, cosa del genere, perché mi piacerebbe davvero tanto rigiocarne un altro simile. Ma piccoli desideri. Comunque, vabbè. Ma parlando di persone che ci fanno sognare, sogni, sigla. Kept you waiting, huh? E dopo questa pausa tattica, questa sigla, parliamo di Kojima. Di chi, scusa? Dai, Kojima, quello... Ah, quello del baretto, certo. Sì. Che dire dei finali di Kojima? Ce ne sono molti. Direi, se ha fatto 5 giochi, ce ne sono in media 20 per gioco, quindi un centinaio di finali. Stavo giusto per dire, forse è uno dei pochi che hanno molti più finali a suo nome che io. Direi innanzitutto di spiegare questa gag, perché probabilmente va spiegata. Direi iniziare mettendoci avanti, no? Con la cosa. Sì, l'abbiamo detta prima. Perché però... la parola finale in relazione a Kojima ci fa un po' ridere? Se chiedi a me, io ti rispondo perché esistono giochi che ne hanno 4 allo stesso tempo e nessuno. Cioè, perché Kojima gli piace talmente l'idea del finale, cioè lui si fa le seghe, no, con la sua storia, la sua capacità di fare questi filmati, queste storie che si chiudono, capito, così, che alla fine gli si pensa, gli ne escono quattro alla fine, capito, cioè gli prende un po' la mano, diciamo, per fare... Quindi l'esempio che mi viene in mente a me è Metal Gear Solid 5, dove io penso davvero, senza esagerare, ci sono almeno quattro finali. Cioè, un po' perché il gioco è un po' azzoppato, quindi non c'è un vero finale, nel senso che doveva esserci un terzo capitolo, poi non c'è stato, non l'hanno fatto per soldi, per motivi di soldi. Almeno però, a noi hanno detto che erano motivi di soldi, poi chi lo sa. Chi lo sa, sono... magari... Però allo stesso tempo ce ne sono quattro, cioè, cioè finale di Quiet, finale di Paz, finale di Kaz, finale di Mats, cioè tutto un finale. E tra l'altro c'è un finale aggiuntivo che hanno scoperto solamente recentemente. Cioè un finale nascosto, perché... O meglio, l'avevano scoperto con varie, cioè, data mining, cioè andare a ravanare nei file, però recentemente i giocatori sulla versione PlayStation 3 di Metal Gear Solid 5, con una versione che pensano in 12 a giocarci, in 12 persone, sì, perché Metal Gear Solid 5 è uscito per vecchie console e console attuali, nella versione, diciamo, vecchia per PlayStation 3 c'erano pochi veramente giocatori. Quindi che è successo? Che nel multiplayer online, quindi modalità multigiocatore non player versus player, cioè non PvP diretto, cioè non tipo, che ne so, ammazzarsi così, ma quello con le basi, cioè dove ogni giocatore ha una sua base con sopra delle, appunto, delle guardie, delle player risorse. Player versus base. Esatto. Ogni giocatore potenzialmente aveva queste risorse e quindi altri giocatori potevano rubarsi o nuke delle bombe nucleari. Quindi che succede? Che se tutti quanti i giocatori del mondo di una versione riescono a smantellare queste bombe nucleari, il gioco finisce un'altra volta. Cioè tutti i giocatori vedono lo stesso filmato dove dicono: ah, che bello, non ci sono più bombe nucleari nel mondo, capito? Cioè, è questa cosa... Mamma mia, quel gioco è pieno. Ammettiamolo, questa cosa è una delle cose più fuori di testa che si possono immaginare. Che a Salla gli verrà più che il latte alle ginocchia, ma proprio ci verrà a picchiare appena ci vede. Il formaggio alle ginocchia, proprio. Però voglio dire, è anche una di quelle cose che se ti fa dire, poi ti fa venire un po' un durello per Kojima, dai. Un pochino, dai, perché ci doveva essere lui che è talmente folle da metterti una roba del genere. Kojima secondo me davvero, cioè, se non fosse sviluppatore di videogiochi sarebbe nel manicomio, cioè, o era uno o l'altra scelta di carriere, per cui, e questo vabbè è uno, no, per cui quindi questo per dare giusto la definizione generale, sì, Kojima diciamo che ha un rapporto molto interessante con i suoi finali, perché, come dire, lui è molto giapponese, no, nelle sue storie, lui, cioè, la sue storie devono finire in maniera epica. Quando diciamo prima che i finali devono essere memorabili, quelli di Kojima possiamo metterci il check a fianco al memorabile, perché direi che lui ce l'ha questa cosa, e gli piacciono talmente tanto i finali, appunto, che è molto probabile che in molti dei suoi giochi si ritrova con più di un finale, o per meglio dire un punto in cui la storia si conclude fino a che non ricomincia di nuovo per aggiungere, per dire qualcos'altro, per dire aggiungere una virgola in più, no? Una frase in più. E che rende i suoi giochi, come dire, particolari sotto questo punto. Decisamente, sì. Quindi abbiamo citato... Perché, cioè, tipo appunto, perché sono 5, poi c'è anche 3, che tipo c'è... Ah, e invece questo! Ah, ma no, aspetta, c'è anche questo! Quindi c'è un casino di doppio giochisti, triplo giochisti. Cioè, il finale è bello perché, vabbè, nel Gear Solid 3 l'abbiamo già detto, c'è, cioè, quella boss battle finale. È molto bello il finale. Perdonami, cioè, ho notato adesso cos'è scritto accanto a Death Stranding. Prego, prego, continua perché ti ho visto, ti vedo molto. Vai, vai, vai. No, vabbè, era per dire, poi volevo finire con Metal Gear Solid 3, poi del resto puoi parlare anche tu. Metal Gear Solid 3 è the best per me ed è anche il motivo per cui questa puntata si chiama The End, perché è un boss di Metal Gear Solid 3. Non è il boss finale, che è The Boss, quindi abbiamo un po' investito le due puntate, The Boss e The End. Però... Anche se in questo caso non so se The End si potrebbe riferire necessariamente a quel boss. Vabbè, andiamo avanti. Era giusto. No, però è il finale di Metal Gear Solid 3, secondo me, che è uno dei più bei finali a livello di trama, a livello di meccaniche, a livello di finali alla Kojima, cioè quei due o tre finali che ci stanno in mezzo. Questo forse l'avevamo già anche accennato, Kojima partiva proprio all'inizio un po' più come regista, lui è partito interessato più al cinema che ai videogiochi in sé, poi ha visto che ha avuto l'opportunità, diciamo, di entrare più nel mondo dei videogiochi che in quello del cinema, però tutto quello che a cui era appassionato se l'è portato un po' dietro, quindi questi finali epici da spettacolari, cioè pazzeschi, da vero cinema pieni di musiche e crescendi, sono anche una cosa che ha imparato dal cinema e che poi ha riportato nel mondo in queste maniere. Cioè la Marvel deve ringraziare Kojima per i post credits, le scene dopo i credits. Cazzo, perché è vero. Kojima ce n'ha tre almeno per ogni gioco. Perché ci sta il finale, poi ci stanno i credits dove vedi tutti i nomi di quelli che ci hanno lavorato, quindi ci vedi 5 volte Kojima almeno lì dentro, se non 20. Poi leggi, capito, un'altra cosa, tipo... Vedi tipo 5 volte Kojima anche all'inizio del gioco, ma... Vabbè. Esatto. Poi vedi tipo la scena, capito, figa, così, poi vedi il nome del gioco un'altra volta, poi parla uno in sottofondo mentre vedi il nome del gioco, quindi almeno 3-4 finali ce l'hai sempre. Questo invece appunto... Marco. No, vabbè, giusto per dire che abbiamo detto Metal Gear Solid 5, Metal Gear Solid 3 sono quelli in cui forse si sente di più in assoluto della saga dei Metal Gear. Metal Gear, gli altri Metal Gear, cioè nel senso il primo forse è l'unico che si salva, perché voglio dire, era ancora il primo, si stava ancora un po' tastando un po' le acque, ha detto sì, dai. In realtà nel primo ha fatto anche una cosa che noi abbiamo giudicato un po' tecnicamente sbagliata, no? Che tecnicamente ci sarebbero due finali alternativi, di cui solo uno è quello giusto, tra virgolette, per la continuità della storia. Ah sì? Sì, se non so se ti ricordi, c'è quello in cui salva la ragazza di cui mi sta sfuggendo il nome in questo momento. Mary, grazie. Oppure salva Otacon portandolo... Ma che dici? Ma sì, ma non ti ricordi? Stavo dicendo una cosa che... No, mi stai aprendo un mondo. Nel primo Metal Gear Solid ci dovrebbero essere due possibili finali, che è uno in cui va via sulla moto da neve con Meryl dietro, oppure con Otacon dietro. E mi sembra quello canon fosse quello con Meryl. Otacon. Con Otacon? Io non sono degno, io mi ricordo solo quello con Meryl. Io non sono degno di questa sezione del podcast. Vabbè, pure io l'ho visto da Sabaku alla fine, quindi. No, adesso non siamo degni di Sabaku. Questo è un altro, non siamo degni di Sabaku, non siamo degni di Kojima. Quindi per dire questo. Poi però, visto che anche lui forse è arrivato che le cose del finale alternativo di cui uno giusto non andava bene, ha detto che faccio? Io voglio fare 5 finali diversi e ce li metto tutti, non c'è bisogno di scegliere. Perché scegliere? Non c'è bisogno di scegliere, poi basta fare il gioco. E giusto per quindi concludere... abbiamo il 2. Esatto. Precisamente. E niente, giusto per concludere, anche questa cosa non finisce assolutamente con i Metal Gear, perché anche nel suo ultimo titolo, Death Stranding, ci sono, senza fare troppi episodi, ci sono, però seriamente ci sono almeno 3 punti in cui io seriamente pensato, quando l'ho visto, che il gioco fosse finito, e invece no, e Kojima ci ha ritirato dentro per un'altra buona parte di avventura. E così, quindi... Bordello. Anche qua, finali nelle saghe di Kojima un po' più che i finali in sé essere unici, perché alla fine sono sempre, come dire, storie epiche, finiscono con finali epici e queste storie molto non epocali, non so, non mi sta venendo la parola giusta, quasi queste leggende, quasi queste storie leggendarie quasi, però il fatto che vengano utilizzati, come lui li usi anche in questo caso per ingannare il giocatore più volte, perché uno ormai con i giocatori esperti, soprattutto con con il loro vocabolario del gioco, no? Si aspettano che una volta visti i titoli di coda, che una volta partita la musica in un certo momento, il gioco sia effettivamente concluso. Anche in questo caso lui ribalta un po' le aspettative del giocatore e di nuovo ti ci ributta dentro con altra parte di storia. Gli piace ribaltare le cose, Kojima fa certe frittate, guarda, anche io. Però, cioè, anche a livello di trama, no? Cioè, in Metal Gear Solid 2 ti ribalta tutto alla fine, c'è quello spiegone di mezz'ora con i meme, che per carità è figo, però cioè, sei lì, pure sul 4 ti spiega le cose, 5 ore per farti finire la trama. La cosa bella, secondo me, di Death Stranding è che il finale pure è prolisso, cioè ci stai un sacco, però è pieno di momenti davvero che sono dei picchi, cioè di momenti altissimi del gioco il finale. Cioè momenti bassissimi, tipo Princess Beach, che io vorrei cancellare dalla storia del videogioco, ai momenti altissimi, tipo adesso non posso spoilerare, però quel personaggio che alla fine ferma Sam nel corridoio e gli parla per un minuto, tipo 2 minuti. Cioè, quel monologo dove lui, cioè, sta in lacrime e così, è da Oscar quasi, cioè nel senso è da... Anche come reagisce Sam, anche il fatto che Sam alla fine dica, e qui faccio un mezzo spoiler... Comunque io, cioè, è vero che adesso sono più a mio agio quando le persone tipo mi toccano, cioè riesco più ad avere un contatto con le persone, ma comunque per me, cioè, a livello di atteggiamento così, non è che è cambiato tutto, quindi è bello vedere come lui si è evoluto, no? Con la trama, è come è passato da persona normale a persona scelta quasi per diventare una leggenda, a di nuovo capire che in realtà era solamente tutto uno scherzo, no? Cioè, è una cosa molto la Kojima, sì, ma l'ho trovata molto più intima del solito, come finale l'ho trovato più bello, più... Possiamo pigliarlo per il culo quanto vogliamo, io te che salla, cioè, Kojima, però una cosa non si può non dire, cioè che non sappia... Ho detto una frase completamente sbagliata. Quello che volevo dire era: possiamo pigliare per il culo quanto vogliamo, però Kojima sa scrivere la storia almeno dei personaggi principali, inteso anche un po' come crescita del personaggio e cose del genere. Poi che i suoi universi maschili, sì, quelli femminili, okay, no, però nessuno è perfetto. Però ora che poi i suoi universi ogni tanto ci abbiano delle falle logiche, cose del genere, ok, ovviamente sono più. L'universo è più, come dire, uno strumento epico per raccontare la storia, così. Però il personaggio ci sta, cioè, i personaggi maschili almeno li sa scrivere bene. Poi, vabbè, comunque 50 anni anche lui si dovrà divertire, anche lui ha bisogno delle, no? C'erano le veline in Italia, certo. Certo. Più ti è in vista. Cosa stiamo dicendo? Va bene. Niente, quindi, per concludere, che altro dire? Dobbiamo dire qualcos'altro? Direi che abbiamo detto tutto. Siamo giunti al finale di questa puntata. No? Quindi il finale deve essere chiaro, deve essere soddisfacente. Quindi ciao. Date a fanculo. Ah, ci starebbe benissimo se tagliassimo qui. E poi alla Kojima torniamo e invece il finale è vero, quindi beh, grazie per averci ascoltato, questo è stato l'episodio 16 del nostro Focolare Elettrico, alla prossima, io sono Marco, io sono Jacopo e continuate a giocare. Thank you. realtà non sono Jacopo, io sono un doppio giochista dell'Unione Sovietica che si è infiltrato nel podcast sul fuoco elettrico per trovare informazioni sul sallotto, su cui sono un altro agente segreto che è un triplo giochista, perché sono un infiltrato dal focolare elettrico, capito? Quindi è... Non ho capito. In mezzo ci stanno quasi... Volevo fare... Microfilm.